Ciao, sono Nicole, sono un'educatrice museale e lavoro nella didattica dell'arte e non lavoro dal 24 febbraio e non so ancora per quanto non potrò lavorare, sono a casa senza reddito perché ho un contratto di collaborazione. Vi leggo un racconto chiamato Il sonno delle piante di Anne Richter, che ho trovato nell'antologia Le Visionarie, Fantascienza, Fantasy e Femminismo. Viveva come una pianta. Il ritmo della sua vita era più vegetale che umano. Era incline a scivolare lenta nel sonno. Lo faceva a intervalli regolari. Restava inattiva, immobile, con le mani incrociate sulle ginocchia, la testa leggermente inclinata verso una spalla, lo sguardo dritto davanti a sé. A volte bastava una sciocchezza, un'ape stremata e smarrita tra le pieghe della tenda che cercava di risalire con pazienza, a scatti, fermandosi per radunare le forze. Di solito, prima di riprendere il volo, l'ape si protendeva verso l'alto. La donna aspettava il momento in cui l'insetto sarebbe caduto, desiderando che avvenisse e allo stesso tempo temendolo. Così, presa dalla miseria di quella creatura, d'avere i palmi sudati. Oppure si limitava a osservare il vorticare preciso del pulviscolo nella luce, tra la cassettiera e il tappeto, trovando una consolazione segreta in quel movimento regolare. Seguiva i rivoletti d'acqua che scorrevano sui vetri sporchi, oppure si crogiolava in una delle sue afflizioni interminabili che non erano mai letali. Sembrava le prolungasse per il semplice gusto di farlo, dalle quali riemergeva senza fretta, con gli occhi spalancati, una sfumatura bluastra sulla pelle, come abbagliata dalla luce dopo essere uscita da una caverna. Sprofondò in una solitudine senza fine, isolandosi in una fortezza di silenzio. In tali momenti i suoi pensieri erano vaghi, eppure seguivano una traiettoria precisa, con la pazienza di un ragno. Nonostante le palpebre semichiuse, si sforzava di cogliere di sorpresa le cose come pensava dovessero essere. Questo richiedeva un'immobilità pressoché totale, dolorosi sforzi di concentrazione. Con meticolosità ripeteva alcune parole banali finché non perdevano di significato. Cucchiaio, cucchiaio, diceva con dolcezza e testardaggine. Levigava la parola maneggiandola quasi sovrappensiero, ma avendo cura di trattarla nella maniera più rispettosa possibile, senza mai considerarla o vederla nella sua mera utilità. A poco tutto perdeva consistenza. Poi iniziava il lavoro meticoloso, da orologiaio, insisteva con cautela, faceva decantare, alitava nuova vita nella parola, piano. A volte la vedeva rianimarsi, rimettersi in piedi, e a quel punto ne scopriva un significato del tutto nuovo. Definiva quel processo spogliare le parole. Un giorno si fidanzò. Il suo promesso era un giovanotto piacevole. La domenica andavano spesso a fare delle passeggiate in campagna. Procedevano a passi lenti, mano nella mano, tra i pascoli e le siepi. Parlavano di questo e di quello, senza passione o impazienza. Una mattina, George decise di mostrarle un posto che aveva scovato. Prepararono un pranzo al sacco e si avviarono all'aperto. Faceva un caldo insolito. Tutti gli alberi erano in fiore, l'erba alta nei campi. Eccolo! Esclamò George. Corriamo! Scattarono entrambi in una corsa. La ragazza filava velocissima tra l'erba, ridendo e agitando le braccia. Mostrava una vitalità inaspettata. Raggiunse il primo tocco, il primo tronco dell'albero e lo abbracciò. Il fidanzato accorciò le distanze e posò la bocca sulle sue labbra. I boschi davanti a loro erano spaccati in chiazze di ombra e luce. Ma all'improvviso lei si sentì svenire e le sue mani artigliarono la corteccia. Il ragazzo era preoccupato, sorpreso. «Non è niente», disse lei. Si sedette sull'erba e poggiò la schiena contro l'albero. Poi divenne pallida. Lisciò le pieghe del vestito e diede qualche occhiata ansiosa al suo fidanzato. «Che posto delizioso», commentò. Ma il déjà vu sull'herbe, il déjeuner sull'herbe era rovinato. Smisero di fare passeggiate. Il suo fidanzato cercava di portarsela dietro, ma lei si ostinava a rifiutare, dando la colpa alla fatica. In quel periodo, infatti, soffriva di inspiegabili attacchi di spossatezza. Le dispiaceva, in tutta quella condizione di immobilità, non poter mettere radici. Inchiodata al terreno, per sempre, avvolta da una nuvola leggera di luce, come quelle che circondano i pini o certi arbusti durante l'estate. Ma doveva alzarsi dalla sedia, andare di qui e andare di lì. L'atto di parlare e di muoversi era una violenza che infliggeva a se stessa, e alla fine si ritirava tremando, con la bocca secca, sconfitta dall'arsura, come una pianta che non viene annaffiata. L'affaccendarsi attorno a lei era più incomprensibile che mai, un andirivieni senza senso, un futile caos. La quotidianità regolare la impensieriva. Tratteneva la sua fioritura, viveva di niente. Era come un cactus, con la pelle sensibile nascosta dalle spine protettive. Aveva bisogno di poca acqua e poca luce per vivere. Sapeva che a furia di stare immobile e di ritirarti dal mondo, alla fine ti senti come se ne diventassi il centro, come se diventassi la fonte del suo movimento. Da bambina aveva giocato a diventare il centro della terra, un passatempo straordinario di cui non si stancava mai, segretamente consapevole, forse, della sua gravità e del suo potere. Camminava all'indietro con la testa rovesciata per fissare il cielo finché non le veniva il capogiro. Era quello che voleva, uno stordimento che le facesse vedere le cose in maniera diversa. Lei, completamente pietrificata, mentre la terra oscillava e il sole e le nuvole a vorticarle sopra la testa. Oppure, seduta nella carrozza del treno in movimento, quando assaggiava la ruvidità del sedile sotto di lei con le mani, consapevole del ritmo cadenziario del viaggio in ogni fibra del suo corpo, e la carrozza puzzava di cenere fredda, vestiti umidi e fumo, e lei scrutava fuori dal ritaglio bianco del finestrino, e all'improvviso il mondo iniziava a cambiare forma. Durante le fermate del treno, attraverso l'angolo del finestrino, vedeva le persone che camminavano, i pascoli superati con un balzo, il cielo in fuga, squarciato dai cavi tesi delle linee telefoniche. Questo stato di grazia finiva quasi sempre, troppo in fretta. Il mondo tornava a essere immobile e la sua carrozza del treno sferragliava chissà dove. L'amarezza la invadeva, il disgusto. Pensava di essere l'unico essere vivente in un mondo defunto, scosso dall'urlo e dal furore, finché un giorno capì: il movimento aveva origine nell'assenza di movimento. Decise di ritirarsi in silenzio e in silenzio animare il mondo. Fece così, si procurò una conca di ceramica gigante, un grosso sacco di terriccio, mise i piedi nel bacile, si coprì le gambe di terra, scomparì fino ai fianchi. Che sensazione meravigliosa! Non era mai stata così in estasi. Era di nuovo nel suo elemento, dalla profondità del suo essere sbocciò il silenzio, ma avvertiva ancora un po' il nervosismo, un formicolio sulla punta delle dita, negli arti inferiori, come un'anticipazione. «Mi ci abituerò», pensò, muovendo le dita dei piedi. Poi ci fu un tocco alla porta. Cosa avrebbe detto sua madre? La porta si aprì e le due incrociarono lo sguardo. Che pena negli occhi di sua madre. «Da te mi aspetto sempre il peggio, ma non questo, non questo». «Senti, ho sempre creduto. Senti, ho sempre ceduto, ma questa volta le tue lacrime sono sprecate. Infatti le cose restarono più o meno così. Dopo il trauma iniziale si ristabilì la quotidianità. Non aveva mai occupato troppo spazio all'interno del nucleo familiare, ma da quel momento in poi non ne occupò nessuno. La sedia vuota al tavolo della cena venne risospinta nell'angolo. Il letto, intatto, venne trasferito in soffitta. I vestiti furono regalati ai poveri. Non una volta sua madre alzò lo sguardo verso la conca di ceramica al piano di sopra. Ci passava l'aspirapolvere attorno, puliva il tappeto senza fare commenti, spolverava in fretta con il volto inespressivo. Forse sperava, negando la luce a sua figlia, di vederla avvizzire e morire. Ma le piante sono robuste. Hanno tutto il tempo del mondo e il dono della frugalità. Quando venne a trovare il suo fidanzato, non seppe cosa dirgli. Lui sollevò le tapparelle, lei aveva un aspetto pallido, gli occhi cerchiati, le braccia pendevano fiacche ai lati del corpo, come rami morti. La nuca era piegata sotto il muschio dei capelli. Lo guardò, lasciando trapelare un po' di irritazione. I movimenti di lui erano sempre stati così bruschi? Non ricordava di essere stata infastidita in passato. «Hai sempre detto di volermi vedere felice», mormorò. «Forse non ti sei mai accorto che non lo ero. Sarebbe successo prima o poi. Non è meglio che sia capitato prima del matrimonio? Sei ancora libero adesso. Non devi stare con il pensiero di ferirmi». George cercò di prenderle la mano, ma era così fredda, come se il sangue piano se ne stesse ritirando. «Come fai a dire certe cose? Non sai che ti amo. Sarei morto per te. Ma capisco che questo non significhi nulla. Hai deciso di distruggerti. Cosa posso darti adesso?» Nonostante tutto, era commossa, ma era stanca. Il buio era stato un'ordalia invincibile, indicibile. Rivolse gli occhi sbiaditi al sole, fece lo sforzo di parlare. «Sei generoso, George. C'è qualcosa che puoi fare per me se vuoi. Mia madre non lo ammetterà mai, ma so che vuole farla finita il prima possibile. Però io ho bisogno di nutrirmi. Portami qualcosa da mangiare, da bere». Era ancora carnivora, almeno in parte. Il fidanzato le portò mosche, zanzare, qualche volta anche dei ragni. Lei li ingoiava interi, famelica, allungando il collo in avanti. Li tranciava con un movimento improvviso della mandibola. Era uno spettacolo inconsueto e il suo fidanzato faticava a guardare. Si voltava altrove, con discrezione. Ma presto lei perse il gusto della carne. Le era rimasto solo un desiderio di acqua pura. Sognava una sorgente. Le sue idee assunsero la forma delle foglie, vaghe aspirazioni in silenzio. Parlava sempre di meno, un po' a disagio per quel mutismo, il fidanzato chiacchierava per entrambi. Un giorno disse: «Se tu volessi, Anya», ma non completò la frase. Si rendeva conto benissimo che lei non voleva più nulla. Infatti, non aveva neanche più bisogno della sua presenza. Era sempre con lei, dietro quegli occhi chiusi, ma lui parlava ancora. Tutti parlavano. Quanto avrebbe voluto scacciare via quello sciame intollerabile di parole, come se fossero insetti molesti. Al piano di sotto chiedevano: «Dov'è Anya?» «Oh, nella sua stanza. È in collegio, è in viaggio. È così timida, troppo timida». Lei era in attesa delle radici. Si fece carico della sofferenza delle piante. La sete dei fiori recisi che torcevano i gambi verso la luce del sole, il sogno umido dell'alga abbandonata sulla riva, il freddo dei roseti nel gelo di novembre, la follia effimera delle piante da interno che divorano i muri e le finestre, la proliferazione furiosa di boccioli esotici portati da queste parti come schiavi che disseminavano i quattro angoli del giardino con i frutti sinistri della loro rivolta. i sospiri degli uomini invischiati nella fanghiglia di azioni senza senso. Il suo fidanzato era premuroso e le portava dell'acqua ogni giorno prima di andare a lavoro. Parlare ormai lo scoraggiava, ma lei non se ne accorse, era in attesa. Quanto era estenuante stare immobile ad aspettare. Riempiamo le nostre giornate di distrazioni, ma forse sarebbe meglio restare fedeli all'attesa, aspettare senza muoversi, parlare, sollevare un dito in una stanza spoglia come questa. Le sue radici crebbero di notte, le sentiva dappertutto, mentre fendevano la terra. Che gioia finalmente! E che dolore! Si sentiva come se stesse ripercorrendo all'indietro il fiume del tempo. Venne assalita dagli odori, dai sensi che cambiavano in continuazione. La sua adolescenza aveva un odore ansioso di tiglio rancido. Ne era cresciuto un po' nel cortile della scuola, dove si era sempre annoiata a morte. La sua infanzia, invece, odorava di sorbo. Si vide scivolare giù lungo un tornante della memoria. Un merlo emanò un suono fragoroso dalle profondità di un cespuglio. Mele di sorbo spiccavano sanguinolente sul terreno. Le schiacciò sotto i talloni. Che mondo sarebbe apparso una volta superato quel tornante? Avanzava con cautela. Con una spinta finale le sue radici ruppero il terreno. Si ritrovò a scendere ancora, con il cuore che le batteva, verso un odore, l'odore del giorno in cui era nata. La sua nascita aveva un aroma spento, come l'odore che aleggiava sopra le miniere di ferro. La sua nascita odorava di felci. Lei era una felce scintillante, con la cima ben eretta, che graffiava il cielo con il suo palmo di luce. La mattina dopo aveva le mani di foglie aperte. Il fidanzato andò a trovarla. Era irradiato, parlava a testa bassa. «Senti, ci ho pensato a lungo. Devo proprio dirtelo. Ho conosciuto una persona, una ragazza, la sorella di un collega. È dolce, ha la testa sulle spalle. A suo modo ti assomiglia. Mi hai detto tu che la vita va avanti, ma non posso abbandonarti. Le nostre vite sono intrecciate. Ania, vuoi venire al nostro matrimonio? Ti va di vivere con noi?» Dalla finestra trapelava una leggera brezza. Accarezzava il tronco, si intrufolava tra i rami. Le foglie in cima alla pianta si piegarono un po', in segno di tacita approvazione. Giorgio si chinò, sollevò la conca di ceramica pesante. Per un attimo le foglie si agitarono, tremarono, ma presto riassunsero un'immobilità sognante. Quando Ania varcò la porta tra le braccia del giovane uomo, sua madre, nei recessi della cucina, strinse il pugno attorno al manico di una padella, voltando le spalle alla coppia. George la piantò in giardino, in mezzo al prato. Le radici erano libere di respirare. Lei lo ringraziò, ondeggiando il fogliame felice. Poco tempo dopo, durante una mattinata di sole, lui convogliò a nozze. La sposa minuta, dalle gote pallide, fluttuava tra gli invitati, leggera come una ninfea. Qualcuno ballava sotto le foglie bagnate di luce lunare. Quell'estate, l'albero fece spuntare dei bellissimi fiori.